padre, padre, padre, lei non ha avuto le vicende che ho avuto io nella vita, mi diceva un tale. Beh, e di buono c'è stato mai niente nella sua vita? Io gli ho chiesto. Eh no, di buono qualcosa c'è. E scusi, si è dimenticato del bene che ha fatto? Ha aiutato il parroco? Ho aiutato a far l'asilo. Ho anche risparmiato dei soldi per adottare un bambino e tante cose. E queste cose lei come mai che le dimentica? Bisogna ricordarle. Nei momenti in cui si avvicina la tentazione satanica dello scoraggiamento, bisogna ricordare le cose belle e buone che abbiamo combinato nella vita, e ce n'è per tutti. Ognuno di noi, come diceva Papa Giovanni, ha il suo corredo, il suo bagaglio di cose buone. In quei momenti tristi abbiamo bisogno di ricordi buoni, risvegliamoli nella nostra memoria. Ti ricordi quella volta là che hai pagato un pranzo a un povero, che ti ha chiesto la carità, gli hai dato ordine al ristorante di fargli un pranzo? Ti ricordi quella volta che hai aiutato il parroco per l'acquisto delle campane? Ma ti ricordi quella volta che a un missionario hai vuotato il borsellino perché facesse del bene ai lebbrosi? Ti ricordi? Questi ricordi sono salvagente, salvagente. Non è superbia, non è presunzione, è un dovere di giustizia, è un dovere di onestà. E quando è che invece emergono sempre i tristi ricordi? Quando siamo nella bassa marea. Quando siamo nella bassa marea. Siete mai stati in spiaggia? Sì, meglio di passaggio. Quante brutte cose emergono nella laguna di Venezia quando c'è la bassa marea, e bussolotti, e scatole, rifiuti, per carità, speriamo che venga presto l'alta marea, così copre tutte quelle miserie. Ecco, quando noi siamo in bassa marea ci vengono in mente tutte le cose tristi, tutti i bussolotti della nostra vita, tutti i fiaschi della nostra vita, tutte le cappelle, tutte le miserie della nostra vita, perché siamo giù, bassa marea, scoraggiati. Che brutto, che puzza che c'è, ricordo a Grado, dove ero andato a predicare una settimana, i sacerdoti là, a Grado. Oh, mamma mia, che odoraccio alla mattina, io apro la finestra e dico, ma cosa succede? Oh, la bassa marea, e intorno a quel centro di spiritualità c'erano tanti di quei rifiuti. Oh, mamma mia, ma ieri sera non li avevo mica visti. E mi risponde il padre guardiano del convento, caro predicatore, quando lei è arrivato ieri sera c'era l'alta marea. E qui la nostra laguna è molto bella quando c'è l'alta marea, ma quando c'è la bassa marea, da scappare e chiudere i vetri perché c'è una puzza e non c'è niente da guardare perché sono tutti rifiuti, come una grande discarica. Oh. E quando siamo giù di marea, allora ci vengono in mente tutte le cose tristi della nostra vita, anche se le abbiamo già confessate, il Signore ha preso la spugna inzuppata nel suo sangue e ha cancellato tutto, ma che quando siamo giù di marea, bassa marea, venga in mente tutto, anche ciò che non abbiamo mai fatto. Pensate, il colmo! Che ci venga in mente che abbiamo rubato e non ho mai rubato un centesimo ad un cristiano, a nessuno. Ci vengono in mente storie che non abbiamo mai commesso, mai combinate. Siamo giù, bassa marea, quanti bussolotti, bottiglie rotte. Ecco la bassa marea. Guardate di non essere mai in bassa marea. Mai. Alta marea. Alto. Sursum corda. L'avete mai sentito questo invito durante la messa? Oi, fedeli! Su! Alta marea! No, non ho mai sentito queste parole sulla bocca del prete. Ve l'ho detto anche ieri sera. In alto i nostri cuori. E avete risposto, sì, sono rivolti a Dio. Era come dire, ehi, qui in questa chiesa, su di marea, su. E voi avete risposto, sì signore, benissimo, su. Attiamo i nostri occhi a Dio. Sursum corda, si dice in latino. Sursum corda, su, alta marea, alta marea. Sapete che anche le navi, le imbarcazioni, si salvano da tanti pericoli quando c'è l'alta marea. Quando c'è la bassa marea c'è il pericolo di incagliarsi nelle sabbie e bisogna fermarsi finché arriva l'alta marea. Come si fa ad attraccare se c'è la bassa marea dove c'è poca acqua? Bisogna aspettare che venga l'alta marea. Ecco, anch'io conosco delle persone che a volte hanno la puzza. Che parola? Sì, sì, la puzza della bassa marea. E allora vado in chiesa e prego tutti i santi del cielo, San Rocco, per esempio, Sant'Antonio Abate, e comincio delle preghiere, perché si affretti che questo mio confratello, o giovane, che sia, salga dalla bassa marea, su, su, sorrida, su, si metta a giocare se c'è la partita da fare, si metta a scrivere, a studiare se c'è da studiare. Signore, sul sun corda ti chiedo per questa persona, così quando qualcuno mi telefona, anche tra voi qualcuno mi ha telefonato, e ho piacere, e padre son giù di corda, ah sì sì, bassa marea, allora pregherò che venga presto l'alta marea, sì sì, faccio un piacere, e allora io mi raccolgo. Se c'è di presente qualcuno, invito anche quello a pregare, non dico per chi, per come, perché bisogna anche essere riservati. Bisogna che facciamo venire presto, presto l'alta marea. E anche per telefono si sente la puzza della bassa marea. Dalle parole che dice chi è avvilito, chi è disperato. Sono disperato, la faccio finita. Ah sì, vado a prendersi un buon caffè. E lo beva corretto, un goccettino di cognac alla mia salute. No, no, no, no, prego, prego, dai. Vedrà che quando avrà bevuto l'ultimo sorsetto di quella tazzina di caffè corretto, si troverà subito fuori della bassa marea. Ci impiegherà mezz'oretta, vero, andare al bar, eccetera. E io intanto in questa mezz'oretta mi metto a pregare che il Signore affretti l'alta marea. Così mi sono fatto tanti amici, cavati fuori dalla bassa marea. Il nome tante volte non lo conosco. A volte mi dicono chi sono, a volte non mi dicono niente. Chi domanda preghiere per una cosa, chi domanda preghiere per un'altra? A volte ci domandano preghiere per cose che a me fanno giusto ridere. Ma di quelle domande di preghiere, eppure a volte sono angustie, cose da niente per me che ascolto. Ma per chi ce le ha nel cuore, queste pene sono spilli, pungono. E allora è una parola, una benedizione. E si sente che torna l'alta marea, si è su di giri, alta marea, su di giri, bassa marea, scoraggiamento, avvilimento, broncio, rabbie, nervosi e tutto il resto, su, alta marea.